Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. Sì, Elizabeth era là. Sulla porta una piccola targa annunciava Atelier Elizabeth Trott. Arretrai spaventato davanti al mio nome. Servus, disse mia moglie, e lasciati guardare. Stavo per baciarle la mano, ma lei respinse il mio braccio, e questo solo gesto bastò a farmi perdere la calma. Era la prima donna che respingeva il mio braccio, ed era mia moglie. Cominciai a sentire quel certo disagio che mi ha sempre assalito alla vista di anomalie e di macchine che compiono gesti umani, per esempio di pazzi o di donne senza l'addome. Eppure era Elizabeth. Portava una blusa verde accollata con il colletto rovesciato e una lunga cravatta maschile. Il suo viso era ancora coperto dalla stessa tenera peluria. L'arco della nuca, quando chinava la testa, lo riconoscevo ancora, e il gioco nervoso delle dita forti, sottili, sul tavolo. Stava appoggiato allo schienale su una sedia da ufficio di legno giallo limone. Tutto là era giallo limone. Il tavolo e la cornice di un quadro, e l'intelaiatura delle larghe finestre, e il pavimento nudo. «Siediti, siediti pure sul tavolo», disse. «Serviti di sigarette. Ancora non mi sono sistemata del tutto». E mi raccontò che aveva fatto tutto da sé. «Con queste due mani», disse mostrando contemporaneamente tutte e due le sue belle mani. Entro quella settimana, poi, sarebbero arrivati il resto della mobilia e una tenda arancione per le finestre. Arancia e limone stavano bene insieme. Finalmente, quando ebbe terminato il suo resoconto e parlava ancora con la sua solita voce un po' rauca che io avevo tanto amato, disse: «Che hai fatto tutto questo tempo?» «Ho lasciato fare agli altri», risposi. «Grazie per i fiori», disse. «Tu mandi fiori, perché non hai telefonato?» «Da noi non c'è il telefono». «Allora racconta», ordinò, e si accese una sigaretta. Fumava, come in seguito ho visto fare a molte donne, storcendo la bocca, la sigaretta da una parte, quando la faccia assume l'espressione caratteristica di quella malattia che dai medici viene definita facies partialis, e con una faticosa noncuranza. «Più tardi, Elizabeth», dissi. «Come vuoi», rispose. «Da un'occhiata alla mia cartella», mi mostrò i suoi schizzi. «Molto originali», dissi. «Progettava ogni sorta di cose: tappeti, scialli, cravatte, anelli, braccialetti, candelieri, paralumi. Tutto era ad angoli. Capisci?» chiese. «No». «E come potresti?» disse, e mi guardò. C'era dolore nel suo sguardo, ed ebbi la netta sensazione che pensasse alla nostra notte di nozze. D'un tratto credetti anch'io di sentire una specie di colpa. Ma come avrei potuto manifestarlo? La porta si spalancò e qualcosa di scuro si rovesciò dentro. Una folata di vento. Una giovane donna con capelli neri, corti, grandi occhi neri, faccia ambrata e abbondante peluria sopra le labbra rosse e robusti denti smaglianti. La donna, entrando, urlò qualcosa che io non capii. Mi alzai, lei si sedette sul tavolo. «Questo è mio marito», disse Elizabeth. Mi ci vollero un paio di minuti per capire che si trattava di Yolant. «Tu non conosci Yolant Satmary?» chiese mia moglie. Seppi così che era una donna famosa. Ancora meglio di mia moglie sapeva come progettare tutto ciò che l'artigianato industriale sembrava assolutamente richiedere. Mi scusai. In realtà, né a Viatka, né durante il tragitto col convoglio, avevo mai sentito fare il nome di Yolant Satmary. «Dov'è il vecchio?» chiese Yolant. «Dovrebbe venire a momenti», disse Elizabeth. «Il vecchio era mio suocero. Infatti, arrivò poco dopo. Quando mi vide, cacciò il consueto «Ah!» e mi abbracciò. Era sano e vispo. «Bentornato!» gridò con un'aria così trionfante come se a portarmi a casa fosse stato lui in persona. «Tutto è bene quel che finisce bene», disse subito dopo. Le due donne risero. Mi sentii avvampare. «Andiamo a mangiare», ordinò. «Guarda qua», mi disse. «Quello che vedi l'ho fatto tutto io, con queste mani», e mi sventolò le mani davanti al naso. Elizabeth faceva finta di cercare il suo cappotto. Andammo dunque a mangiare, o meglio, fummo portati, perché mio suocero, si intende, aveva la sua macchina e il suo autista. «Al solito locale», ordinò. Non osai chiedere quale ristorante fosse il suo solito locale. Ebbene, era il mio vecchio ristorante di fiducia, dove tante volte avevo mangiato coi miei amici, una di quelle vecchie trattorie viennesi dove il padrone conosceva meglio i suoi ospiti che i suoi camerieri, e dove un ospite non era un cliente pagante, ma un ospite sacro. Ora però tutto era mutato. Ci servirono dei camerieri sconosciuti che non mi avevano mai visto e ai quali il mio affabile suocero dava la mano. Qui lui aveva anche il suo tavolo particolare. Io ero un estraneo in quel posto, peggio che un estraneo, perché l'ambiente mi era familiare, la tappezzeria mi era amica e così le finestre, il soffitto annerito dal fumo, la grande stufa di terracotta verde e il vaso di maiolica col bordo azzurro e i fiori appassiti sulla mensola della finestra. Ma erano estranei quelli che mi servivano. E con estranei io sedevo e mangiavo allo stesso tavolo. I loro discorsi non li capivo. Mio suocero, mia moglie Elizabeth, Yolant, Satmari, parlavano di mostre. Avrebbero fondato riviste, affisso manifesti, conseguito successi internazionali, che so io. «Tiriamo dentro anche te», mi diceva di quando in quando mio suocero. E io non avevo la più pallida idea in che cosa mi volesse tirar dentro. Anzi, già la sola idea che io potessi essere tirato dentro mi angosciava. «Il conto!» gridò mio suocero quando finimmo di mangiare. In quell'istante spuntò dietro il banco Leopold, nonno Leopold. Anche 6 anni prima lo chiamavamo nonno Leopold. «Nonno!» gridai. E lui venne fuori. Doveva avere già superato la 70. Camminava sulle gambe malferme e coi piedi in fuori, che sono una caratteristica dei camerieri che hanno servito a lungo. I suoi occhi chiari, sbiaditi, cerchiati di rosso, mi riconobbero subito. E già sorrideva la sua bocca sdentata, già si spiegavano le ali delle sue fedine bianche. Mi scivolò incontro e mi prese la mano, delicatamente, come si tiene un passero. «Oh, che bellezza che almeno lei sia qui!» strillò. «Ritorni presto! Mi terrò onorato di servire io stesso il Signore!» E, senza curarsi dei clienti, gridò alla moglie dietro la cassa. «Finalmente un cliente!» Mio suocero rise. Thank you. Dovevo parlare con mio suocero. Ora scorrevo con lo sguardo, così mi pareva, tutta la scalinata davanti alla quale mi trovavo. Aveva innumerevoli scalini e diventava sempre più ripida. Si capisce, avrei potuto lasciare Elizabeth e non curarmi più di lei. Ma allora non pensai affatto a questa possibilità. Era mia moglie. Ancora oggi vivo con la convinzione che lei è mia moglie. Forse avevo mancato nei suoi confronti, anzi, senza dubbio. O forse era il vecchio amore, solo a metà soffocato, che mi faceva credere che a guidarmi fosse unicamente la coscienza. Forse era la mia pretesa, l'assurda pretesa di tutti gli uomini giovani o rimasti giovani, di far tornare ad ogni costo, come era un tempo, la donna che un tempo hanno amato e poi dimenticato e che è diventata un'altra. Per egoismo. Insomma, dovevo parlare con mio suocero, quindi con Elizabeth. Incontrai mio suocero nel bar del vecchio albergo dove dovevano conoscermi più che bene. Per esserne sicuro, una mezz'ora prima feci una specie di ricognizione. Sì, erano ancora tutti vivi. Due camerieri erano rimpatriati e il barista anche. Sì, si ricordavano perfino ancora che avevo un piccolo debito. E che bene mi fece anche questo. Tutto era calmo e silenzioso. La luce del giorno scendeva morbida dal lucernario. Non c'erano finestre. C'erano ancora vecchie e buone bevande di prima della guerra. Quando arrivò mio suocero, ordinai del cognac. Mi portarono il vecchio Napoleon, come una volta. «Diavolo d'un ragazzo!» disse mio suocero. Certo, ero tutto, meno che questo. Gli dissi che ormai dovevo mettere ordine nella mia vita, anzi, nella nostra vita. Non avevo, così dissi, per niente l'intenzione di rimandare questioni decisive. Dovevo sapere tutto subito. Ero un uomo sistematico, dissi. Lui ascoltò tranquillamente fino in fondo. Poi cominciò. Voglio essere franco con te. Primo, non so se Elizabeth sia ancora disposta a vivere con te, cioè se ti ama. Questo è affar tuo, vostro. Secondo, di che cosa intendi vivere? Insomma, che cosa sai fare? Prima della guerra eri un giovane ricco della buona società, cioè di quella società a cui apparteneva il mio Bubi. Bubi. Era mio cognato. Era quel Bubi che io non avevo mai potuto soffrire. Me ne ero completamente dimenticato. Dov'è? Chiesi. Caduto in guerra, rispose mio suocero. Tacque e vuotò il bicchiere d'un fiato. Nel 1916 è caduto in guerra, aggiunse. Era la prima volta che lo sentivo vicino e familiare. Dunque, proseguì, tu non hai nulla, tu non hai una professione. Personalmente io sono consigliere commerciale e sono stato perfino nobilitato, ma oggi questo non significa nulla. L'intendenza militare mi deve ancora centinaia di migliaia di corone, non me le pagheranno. Ho solo del credito e un po' di denaro in banca. Sono ancora giovane. Posso tentare qualcosa di nuovo, qualcosa di grosso. Come vedi, ora faccio un tentativo con l'artigianato industriale. Elizabeth ha imparato da questa famosa Yoland Satmari. Studio Yoland. Con questo marchio la roba potrebbe fare il giro del mondo. E oltre a ciò, aggiunse con aria sognante, ho ancora qualche altra freccia al mio arco. Questa espressione fu sufficiente a rendermelo di nuovo antipatico. Se ne doveva essere accorto, perché subito dopo disse: «Voi non avete più soldi. Io lo so. La tua signora mamma non lo sospetta ancora. Io ti posso tirar dentro in qualche affare, se vuoi. Ma prima parla con Elizabeth. Servus!» parlai dunque prima con Elizabeth? Fu come riesumare qualcosa che io stesso avevo consegnato alla terra. Era un sentimento che mi spingeva? Una passione che mi attirava verso Elizabeth? Incline per natura e per educazione ad avere responsabilità e volendo anche opporre decisa resistenza all'ordine che regnava intorno a me e nel quale non mi ritrovavo, mi sentivo obbligato a mettere ordine innanzitutto nelle mie faccende private. E allora, fissata, Elizabeth venne in quella pasticceria nel centro della città dove in passato, nei primi tempi del mio innamoramento, ci eravamo incontrati. L'aspettavo al nostro vecchio tavolo. Fui preso dai ricordi, perfino dal sentimentalismo. Il piano di marmo del tavolo doveva mostrare ancora, così sembrava a me, tracce delle sue mani. Un'idea puerile, certo, ridicola, lo sapevo, ma mi costringevo a pensarci. Addirittura quasi mi ci concentravo per poter aggiungere al mio bisogno di mettere ordine nella mia vita anche un qualche sentimento. E quindi per giustificare il mio colloquio con Elizabeth sotto tutti e due gli aspetti. A quell'epoca sperimentai per la prima volta come siano fugaci le nostre vicissitudini, quanto in fretta noi scordiamo e come noi stessi siamo transitori, più di qualsiasi altra creatura sulla terra. Avevo paura di Elizabeth. La guerra, la prigionia, Viatka, il ritorno, li avevo già quasi cancellati dalla memoria. Tutte le mie vicissitudini ormai le mettevo solo in rapporto con Elizabeth. E che cosa significava lei, in fondo, a paragone della perdita dei miei amici Josef Branko, Manes Reisiger, Ian Baranovich e della mia patria, del mio mondo? Elizabeth non era nemmeno mia moglie, secondo lo spirito e la lettera delle leggi sia civili che religiose. Nella vecchia monarchia avremmo potuto ottenere facilmente il divorzio, figuriamoci poi ora. La desideravo ancora? Guardai l'orologio. Entro 5 minuti avrebbe dovuto essere lì, e io mi auguravo che ritardasse almeno un'altra mezz'ora. Per la paura mangiavo le piccole paste alla cioccolata fatte di cicoria e cannella, che potevano sedurre solo i nostri occhi, ma non ingannare il nostro palato. Nella pasticceria non c'era grappa. Elizabeth arrivò. Non arrivò sola. L'accompagnava la sua amica, Yolant Satmari. Io naturalmente mi ero aspettato che venisse sola. Quando però apparve anche Yolant Satmari, non me ne meravigliai affatto. Era chiaro che senza questa donna Elizabeth non sarebbe venuta, non sarebbe potuta venire. E capii. Io non avevo pregiudizi di nessuna specie, oh no, nel mondo in cui ero cresciuto un pregiudizio era considerato quasi un indice di volgarità, solo che il fatto di dare pubblica dimostrazione di qualcosa che era considerato proibito mi parve banale. Probabilmente Elizabeth non avrebbe fatto venire al nostro appuntamento una donna di cui non fosse innamorata. In questo caso doveva ubbidire. Sorprendente era la somiglianza delle due donne, sebbene fossero di carattere così diverso e così diverse di faccia. Dipendeva dalla somiglianza del loro abbigliamento e dei loro gesti. Si sarebbe potuto dire che si somigliavano come sorelle, o piuttosto come fratelli. Come usano fare gli uomini, indugiarono davanti alla porta per decidere chi delle due dovesse dare la precedenza all'altra. Come usano fare gli uomini, indugiarono anche al tavolo per decidere chi delle due dovesse sedersi per prima. Da parte mia, non feci più nemmeno un timido tentativo di baciamano, né con l'una né con l'altra. Ai loro occhi ero un essere ridicolo, figlio di una misera progenie, di una razza sconosciuta e spregiata, incapace, vivessi 100 anni, di essere iniziato alla casta a cui esse appartenevano, diventando partecipe dei misteri che esse custodivano. Ero ancora prigioniero dell'infame concezione che appartenessero a un sesso debole, addirittura inferiore, e tanto impudente da manifestare questa mia concezione con la galanteria. Sedevano accanto a me risolute e solidali, come se io le avessi sfidate.